Allora, sfumo la canzone Revenge di Patti Smith per metterci in contatto con una compagna di Bologna. Ciao. Ciao. Ci senti bene? Sì, un pochino basse. Allora, alziamo il tono. Ok. Dunque, la rete delle femministe e delle lesbiche sono pronte a reagire a una brutta faccenda, e dunque di questo volevamo parlare oggi. Sì. Dunque, se ci puoi raccontare un po' che è successo e come si organizza la resistenza. È successo che c'è stata un'ennesima storia di stupro, e questa volta appunto uno stupro che all'inizio poteva passare come una sbronza finita male, come appunto è stata la prima reazione degli amici o delle amiche più vicine di questa nostra compagna femminista, che si è trovata per un aperitivo di lavoro a bere, come si fa tutte, no? Una cosa che poteva succedere a ognuna di noi, e è andata in un posto che considerava sicuro, un bar frequentato dall'ambiente alternativo e anche da tante donne, un bar di Bologna abbastanza conosciuto appunto come bar alternativo, e quindi lei si sentiva anche abbastanza tranquilla, insomma, nella sua appunto uscita con le amiche. E invece, dopo il primo sorso da un bicchiere offerto da un frequentatore del bar, lei non si ricorda già più niente di quello che è successo. Quindi lei ha avuto un blackout di quasi 10 ore, probabilmente si è ritrovata nel letto di questo sconosciuto la mattina dopo, e appunto, andando a informarsi su quello che era successo, gli hanno detto: no, ma ci stavi, le cose che succedono purtroppo tante volte a tante donne, solo che questa volta lo stupratore ha beccato una femminista nel senso, almeno c'è stata una reazione da parte sua, e perché molte donne purtroppo si sentono molto, si vergognano, no? del fatto che loro si sentono in colpa, perché pensano che il fatto che siano uscite e abbiano bevuto possa poi permettere, no, agli stupratori di agire tranquillamente. Non li chiamano nemmeno stupratori, alcuni li chiamano bambascioni o cose così, insomma, no? degli ubriaconi da bar che ci provano con tutte, però no, il problema è la morale comune, no? Che quando una donna beve e dà confidenza a qualcuno, se le succede qualcosa vuol dire che se l'è cercata o la sbronza finisce male. Invece no, i maschi possono ubriacarsi quanto vogliono, ma soprattutto possono approfittare di donne che, completamente ubriache, no, dicono che l'hanno cercati, quindi che li hanno cercati in qualche modo, no? E quindi noi questa volta abbiamo deciso di stare accanto a Flora, questa compagna che ha chiesto appunto il sostegno e la solidarietà delle femministe più vicine di Bologna, e abbiamo deciso di reagire prima di tutto sentendo cosa lei voleva fare da tutta questa storia. Insomma, lei non se la sente di denunciare legalmente, perché ha visto, ha seguito da vicino anche processi dell'Aquila o della ragazza di Via Libia a Bologna, non so se ve lo ricordate, sì, voi sì. A Roma, però insomma noi siamo scese in piazza tante volte, insomma, anche in casi in cui c'era di mezzo alcol, amicizie oppure no, una serata fuori, passata fuori, e la donna viene accusata poi dai processi, dai tribunali, eccetera eccetera, di essersela cercata, non solo dalle persone più vicine, no? Sì, che sì, sono sì, lì vicino in quel momento. Lo stupro è l'unico crimine in cui è la vittima che deve difendersi. Sì, infatti, infatti. E poi in questo caso diciamo ancora di più, no? Perché appunto nella morale comune, se una donna si ubriaca, comunque sono fatti suoi, nel senso che poi se succede qualcosa se l'è cercata, insomma, perché proprio così la morale comune, purtroppo ci siamo rese conto che lei non è l'unica, ci sono molti, appunto andando a sentire nei centri antiviolenza, nelle case delle donne, tutte le operatrici con cui ha parlato le hanno detto che probabilmente era stata drogata, perché per avere un blackout di 10 ore probabilmente è stata utilizzata anche una droga, una delle tante droghe che si utilizzano per poi stuprare le donne che escono a bere nei bar, insomma, o le amiche, perché purtroppo no, sappiamo benissimo che addirittura hanno preso anche, gli diamo anche il nome di droghe di stupro, cioè infatti, per dire come comunque è una cosa molto comune, molto che diventa molto, come si dice, larga, cioè usata, larga. Sì, diffusissima. Grazie. Praticamente abbiamo scoperto che a Bologna si compra anche in piazza. Normalmente, vedi, insomma, ci sono, pare che gli spacciatori, tra le altre cose, vendano anche queste, ma si trova anche molto facilmente su internet, oppure utilizzata come terapia per chi vuole smettere di bere, per gli alcolisti, e quindi si può accedere molto facilmente a questo tipo di droga. Cioè il problema, cioè è considerata anche una medicina, il GHB appunto, quella che noi pensiamo che abbia usato, perché rende inconsapevoli della situazione, però capaci di agire in un primo momento, e aumenta la libido in modo incontrollato e rimuove anche i ricordi, proprio tutto quello che è successo alla nostra compagna, insomma. E quindi questa è una cosa che ci ha colpito molto, a parte il fatto che era una nostra compagna, ma proprio perché ci ha fatto rendere conto di quanto non esistono posti sicuri da nessuna parte, no? A meno che non siano posti di donne, chiaramente, solo sì, di donne. Però nei posti misti, se non c'è un'elaborazione vera e non la solita etichetta antisessista, perché ci siamo stancate ancora di queste etichette, no? Che adesso vanno molto di moda, ma poi dietro non c'è un'elaborazione vera e propria all'interno dei posti, degli spazi, dei centri sociali, eccetera eccetera. Ce n'è pochissima di elaborazione, perché anche perché appunto quando si incomincia a parlare della libertà di sballarsi o di fare quello che una vuole, eccetera eccetera, molti dicono: ah sì, però come mi posso introdurre io, no? Entrare a dire che lei non è in grado di intendere e di volere, però se una la vedi che sbatte la testa nel muro, no? Noi facciamo questo esempio, che sta sbattendo la testa contro il muro perché è ubriaca, la fermiamo. Perché non la fermiamo quando vediamo che si avvicina a uno che è evidente che se ne sta approfittando di lei e del suo stato di incoscienza, o comunque no, di scarsa coscienza, diciamo. E quindi noi invece ribadiamo che questi atti, che queste azioni sono azioni di stupro, cioè sono azioni perpetrate da gente che noi non definiamo bambascioni, ma definiamo stupratori. E che c'è una complicità, c'è una complicità di chi non ferma questa cosa. E c'è una complicità da parte di chi non ferma questa cosa. La domanda è giusta, sì. E appunto per questo abbiamo cercato di prima di tutto seguire quello che ci chiedeva lei. Lei ci ha chiesto prima di tutto che ci fosse una campagna informativa in tutti i bar perché si iniziasse a fare un'elaborazione su questa cosa qua. Perché indipendentemente dalle droghe dello stupro, anche se una donna è molto ubriaca, non è giusto che appunto è allucinante che molti se ne approfittino per portarsela a casa e per stuprarla, insomma. Sì, deve essere tutelata. Deve essere tutelata dalle persone che stanno intorno. Chiaro. Poi chiaramente noi consigliamo a tutte le donne di girare con le amiche, con amiche però che sanno che reagiranno se appunto vedono che qualcuno approfitta di una situazione di incoscienza, ma anche i gestori dei bar, soprattutto quelli alternativi, insomma, devono cominciare ad agire anche loro e ad allontanare questi maschi che stanno girando, cioè che come sempre, insomma, girano impunemente e impunemente continuano ad attuare i loro stupri, ecco, così va chiamato, perché questo è quello che succede quando una donna non viene, cioè quando si approfitta dello stato di incoscienza di una donna. C'è da dire che appunto in altri paesi, cioè in California per esempio, no, stanno appunto facendo delle leggi per i college e questa pratica che è molto vasta, ma il problema è che non è solo in California, cioè anche in Italia dobbiamo cominciare a fare qualcosa contro questa pratica terribile che perpetrano i maschi e per il senso di vergogna e di omertà che c'è dopo e di giudizio sulla donna, poi, no? Sì. Che c'è. E dunque quindi è molto difficile reagire. Dunque, per prima un'informazione verso i bar su questa cosa che esiste, che succede, e poi? Sì, quindi noi porteremo anche il fumetto questa compagna che è stata stuprata ha fatto dopo questa storia di merda, e si intitola proprio Una storia di merda il fumetto. Mm-hmm. E l'ha scritto in cartaceo, quindi non l'ha proprio disegnato lei, e quindi purtroppo non ce l'abbiamo da mandarvelo, però sì, se sì, l'abbiamo. Ecco, se volete leggiamo anche degli stralci, perché fa capire molto bene cosa succede, no? Sì. A una donna appunto che esce semplicemente a bere con le amiche, cosa può succedere, no? E cosa succede dopo lo stupro, come si può sentire una donna e quante donne effettivamente non hanno tirato fuori la violenza che avevano subito, perché appunto avevano paura di quello che gli avrebbero detto gli altri. Lei per esempio dice a un certo punto, è bellissima l'immagine di lei con un sacco di vignette intorno di tutte le cose che gli hanno detto le persone, no, intorno a lei. Perché non me lo hai detto subito? Ah, ma dai, è solo una storia tra ubriachi. Ma se lo baciavi eri tu che lo volevi. Se non hai fatto resistenza si vede che ti piaceva. Ma scusa, ma che gente frequenti? Ti sei buttata tra le braccia, se ti sei buttata tra le sue braccia ci sarà dell'irrazionale in te. Se non dicevi no, come facevano a fermarti? Non ci pensare, che è meglio, chissà che cosa hai fatto. 8 ore di blackout, ma ti hanno drogata. Secondo me dovresti risolvere i tuoi problemi di coppia. E poi, insomma, per fortuna alla fine qualcuno gli dice, ma Flora, questo è uno stupro. No? Oppure un'altra persona che dice, stavi limonando, si dice a Bologna, non so se si dice anche a Roma, no, non si capisce. Sono cose tue personali, capito? Perché poi succede sempre questa cosa, no? Che vedi, sì, che una bacia o si avvicina a un altro in preda ai fumi dell'alcol e pensi che sia una scelta libera. E lei però dice, a un certo punto dice, ho paura e vergogna di quello che mi ha fatto, respiro a fatica, io so che non ero cosciente, anche se sembravo lucida, e lo schifoso ne ha approfittato. E poi parla appunto di questa legge USA antistupro, che se il consenso non è chiaro o la persona non è lucida, non è sesso ma stupro. E questa è una cosa che dobbiamo assumerci tutte e tutti, anche i gestori dei bar, se no sono complici, come hai detto te benissimo, insomma. Sì, no, questo fumetto è molto forte la storia, e poi anche molto didattico. Dunque, sì. Immagino che ha avuto la funzione di curarsi, di esprimersi, di svuotarsi di tutta questa merda, di tutta questa storia di merda, ma c'è anche una fortissima potenzialità di didattica, cioè ci sono anche tutti, no, i riferimenti delle donne, delle case delle donne, centri antiviolenza, sì. E dunque sì, è importante. Dunque si andrà a volantinare questo fumetto e anche... Sì, e anche altre cose, sì, appunto, per materiali. Andremo, appunto, noi vogliamo appunto tirare fuori questa storia, perché serva anche ad altre, perché appunto per noi questi maschi da bar sono stupratori veri e propri, e quindi questa cosa noi vogliamo tirarla fuori in tutti i bar di Via del Pratello, che è una via molto frequentata, è piena di bar, piena di bar cosiddetti alternativi, ma dove tante di noi hanno purtroppo vissuto sempre delle storie pesanti, sempre di sessismo, e quindi per quanto riguarda Via del Pratello andremo in una camminata silenziosa, però di diffusione alle donne, di queste, appunto, sia del fumetto ma anche di altre elaborazioni che abbiamo avuto appunto sulla denuncia dei molestatori e di questo molestatore in particolare, ma soprattutto appunto dopo cominceremo, faremo un'altra strada, perché appunto siamo consapevoli che questa strada è una strada, non lo so, paragonabile probabilmente a San Lorenzo a Roma. Quindi forse mi possono capire meglio le romane, dove appunto ci sono un sacco di maschi da bar medi che sono degli stupratori, cioè, veri e propri, insomma, ecco. E quindi che si danno anche molta manforte a vicenda, capito? Quindi sì, sì. In quel caso vogliamo soprattutto non lo so, fare una campagna informativa soprattutto per le donne e i gestori dei bar. Poi il corteo assumerà più i toni delle camminate femministe, con gli slogan, col fatto che vogliamo urlare con forza il nome di chi approfitta di una donna in stato di incoscienza, perché vogliamo che non si ripeta. Vogliamo farli smettere di stuprare impunemente, li vogliamo fare vergognare, perché sono loro che si devono nascondere, devono essere loro ad avere paura di quello che pensa la gente e non le donne, perché abbiamo il diritto di sballarci anche noi senza rischiare la vita, però, no? Sì. Oppure di andare fuori a bere semplicemente un aperitivo, insomma. E quindi, cioè, poi un'altra cosa, per noi è importante la denuncia pubblica. Flora ha deciso di non denunciare legalmente perché appunto ha visto qual è il livello di assenza di giustizia per le donne nei tribunali, no? Nei processi per stupro. E quindi lo facciamo, deve essere un segnale, un primo segnale o uno dei primi segnali, perché ce ne sono stati anche altri, insomma, in cui vogliamo sostenere le donne anche se non denunciano legalmente, perché vogliamo denunciare anche l'impunità degli stupratori e di questa giustizia che non è la giustizia, che non è una giustizia che difende le donne. Soprattutto in casi del genere, pensa che a lei è capitato di andare nei centri antiviolenza e gli hanno detto non ti conviene denunciare, perché in questo caso è uno sconosciuto, non hai le prove, cioè, e tu stavi bevendo, e quindi rischia di ritorcersi contro di sé tutto il processo. Quindi già loro che conoscono benissimo, no, le modalità processuali, che in molti casi, nei casi di stupro in famiglia, no, quando è il marito, il compagno o l'ex che ti stupra, consigliano di denunciare, in questo caso loro consigliano di non denunciare. E questo è anche indicativo del livello della nostra cultura patriarcale e sessista, insomma, perché allora, vuol dire, cioè, e questa è la liberazione sessuale, no, del secondo millennio, no, la chiamiamo noi, cioè. Allora, dunque, denuncia pubblica, ci dai l'appuntamento? Allora, l'appuntamento è alle 5. Purtroppo è girato anche un volantino in cui si diceva alle 6, però a questo punto è alle 5 in piazza San Francesco a Bologna. Okay. E staremo un'oretta lì ad aspettare quelle che sanno che è alle 6 e così e ci prepareremo poi ad andare in camminata, daremo tutti i materiali da diffondere nei bar, adesivi da attaccare nelle vetrine, fogli vari da attaccare ai muri, insomma tutte elaborazioni nostre femministe su questo tipo di violenza in particolare. Allora, avete aperto anche una mail per sì, comunicare, per ricevere la le reazioni, sì, le messaggi di sostegno? Sì, o se ci sono idee, o se qualcuno vuole mandare qualche elaborazione, qualcosa che poi possiamo distribuire appunto alla camminata, oppure se vogliono fare anche delle denunce, perché comunque sappiamo benissimo che è difficilissimo denunciare questo tipo di violenza, insomma, e quindi ci sembra una cosa importante che chi ha subito questo tipo di violenza possa sentire che ci sono altre femministe che sono solidali con lei e che sono pronte a scendere in piazza per smerdare questi porci che hanno approfittato di loro, insomma. La mail è nostuprialbar@autistiche.org. Sì. No stupri al bar, tutto attaccato. Che volevo dire? Mi sa che abbiamo detto tutto. Ah sì, io volevo dire che per Roma ci organizziamo per salire, ovviamente. Benissimo. Che potete scrivere a mfla@ondarossa.info e da lì comunque ci organizziamo per le macchine per andare su. E dunque noi ci vediamo lì. Benissimo. Poi sabato potete anche scrivere le mail appunto per dire di quanti posti avete bisogno per dormire, sì, visto che venite da lontano, così ci organizziamo bene. Ci organizziamo e bene. E facciamo dormire in un posto calduccino, visto che qua fa freddo. No, non fa molto freddo, non vi spaventate. Però siamo contente della solidarietà che arriva dalle compagne di Roma, poi c'è stata molta solidarietà, arriveranno anche dalla Toscana, da Torino, altre compagne, quindi siamo contente che ci sia questa solidarietà per una compagna femminista che è sempre scesa in piazza per le altre, insomma. E è giusto che scendiamo tutte in piazza per lei, insomma. Guarda, ti ringrazio. E vabbè, ci sentiamo, cioè, e speriamo di vederci presto. No, ci vediamo sabato e poi forse si farà un report la settimana prossima. Perfetto, ciao. Benissimo. Ciao, benissimo. Ciao. Grazie mille, compagne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. A prestissimo. Ciao, ciao.